Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Bugün İtabella'ya Sicilya halk müziğinin en kuvvetli, en değerli kadın sanatçılarından biri olarak kabul edilen Matilde Politi'nin şarkıları konuk olacak. Doğduğu adanın folklor üzerine yaptığı çalışmalarla geleneksel sesleri ve uygulamaları yeniden canlandırmayı amaçlayan sanatçı, tarihsel bağlantıların ve etkilerin yanı sıra müzikte ortaya çıkan kültürlerin karışımını çizmek için de Sicilya kökenlerini ve Akdeniz köklerini birleştiren yeni besteler de yapıyor. Şimdi hemen iki Politi eseriyle başlayalım. Önce Aria di Spartenza, arkasından da Kumari, şimdi Itabella'da. Tu rasera, tu tiro. down, lo pianto nello patto mi veneo. Starma però granchi angeli se fosse siamo la siamo più forti perché le case e non sono sempre torti. Aria di Spartanza ve Kumari dinledik Matilde Politi'den. 1976 yılında Sicilya Palermo'da doğan Politi, 1985 yılında piyano ve solfej çalışmalarıyla kendi kendine başlayan müzik eğitimi, 1990 yılında yine kendi kendine gitar ve akordeon çalmayı öğrenerek şarkı söyleme çalışmalarıyla devam ediyor. Ve yıllar boyunca da bu hep kendini araştırmalarla destekleyerek, kendini eğiterek müzikal yolculuğuna devam ediyor. Yıllar boyunca çok sayıda tiyatro yapımında oyuncu, şarkıcı ve müzisyen olarak çalışıyor. Ve bu gösterileri müzikal bölümlerinin yaratıcısı olmanın yanı sıra bir yandan da oyunculara ses eğitmeni olarak da görev alıyor. 1999 yılında Roma Sapienza Üniversitesi Sosyoloji Fakültesi Kültürel Antropoloji bölümünden mezun oluyor. Şimdi hemen bir müzik arası verelim. Matilde Politi'den Madre Terra ve arkasından Ringo ile devam ediyoruz. Se tu ne rispetti come da fortuna. Ven tu parti, ven tu parti, la vuole potere niente, se è già te mangia vuole sarente, e è già te fatto e già te consuma, se tu la rispetti come da fortuna. Matri Terra ve Ringo dinledik Matilde Politi'den. 2000 yılından bu yana kendisine esas olarak Sicilya'nın sözlü gelenek repertuarı üzerine araştırmaya ve çalışmalara adamayı seçmiş. Akdeniz bölgesinin geleneksel müzik referanslarını da içererek sürekli çalışmalarını genişletiyor. Sicilya ve İtalya'da irili ufaklı pek çok mecrada, pek çok festivalde çağrılma fırsatı bulduktan sonra İtalya dışında da pek çok popüler müzik festivalinde, İspanya'da, İsviçre'de, Tunus'ta, Mali'de, Fransa'da, Hollanda ve Belçika, Almanya'da festivallere konuk oluyor. Şimdi Politi'den Ancora con tu albümünden Ricchio Panzavanati ve Sentiti Sentiti Sentiti'ye kulak veriyoruz. Ya danna, ya kalamato. Thank you. a chi è una dinne in faccia l'utamonto, ebbe rezzo a curice quando risce. Ascuta mucca a chi ducche comanna, se dell'ora rallentare e travagliare. Da rosecare sotto a stu vaggiune lo sorfaro che chiance la montagna. E da somma ripetinta carina, le carose stanche stamattina. E a chiare scendere in tasto pureggio. Piscia portare l'oro povereggio. Da sotto un sa respirare già lo fuoco e lo sodore, c'è l'amaro che m'arresta andale arge. Sa ghiazza l'aria fresca questa corba andale vrazza, e lo vento che m'abbrazza. Sa ghiazza l'aria fresca questa corba andale vrazza, e lo vento che m'ammazza. E reco, reco, reco, chianci la panza sotto all'ove geco. E re, re, re, re, re, re, re, dappertutto, ma fanno la bere, pane ci poggia e un domandare niente. Pane ci poggia e se sazia sta gente. Pane ci poggia e un domandare niente. Pani e cipoggia, e se sazia sta gente. Ancora per consare a bastaredda, mancano e chi ci cascia a basteggiare. A chi ha Nicola rinante le nasche, scennante chiara acqua fresca ante le ciasche. Lo pico tu pulia sotto le sciari, manco ne lasso tempo per pisciari. E pari, corpo tu se s'accompagna, ancora pure pecuna la montagna. E pari, corpo tu se è d'una forza, ancora pure zappone dalla scorza. Sputazza nta le cadde pallusciare, lo manico che porta le ranare. Corpare pei cattusse s'accompagna, e pare che ci masse la montagna. Corpore pei cattusse s'accompagna, e solo lo pagione ci guaragna. E reco, reco, reco, panza vacante sotto all'ove geco. Chiance, chiance, chiance, pane sputazzi è meglio che t'arrance. A se ne scesse para tutta gente, e cavo cento colo soprastante. E a se ne scesse para ora la paura. Sentite, sentite, sentite, a scommessa con Cichiriti ficimo un gran teatro, ficimo a triste storia, a storia di l'emigrato. Partiu per la Germania, lo povero emigranti, danni speranza via, tornau senza nenti. Se pedde governanti, lo fecero partire, paveri sopra. Sentite, sentite, sentite, noi tutto sappiamo a sorte le migranti, assai travagliare di guadagnare niente. A terra chi la chiude, ce l'ha ogni speranza, o povero emigranti, lo sfruttamento avanza. Se vede povero partire, povere so guaragne facendo lo patire. Sentite, sentite, sentite, lo popolo siciliano, dopo che fu spremuto, malato e sofferente, alle nostre governanti non ci interessa niente. Lo treno calo porta, lo porta allo paese, trova miseria e fame, burgesi e gente intisi. Se peggio governanti lo fecero partire, paviri so guaragni facendo lo patire. Sentite, sentite, sentite, o popolo siciliano non vuole più emigrare, canta la nostra terra, volevo travagliare. Lo popolo siciliano sta vita una può fare, contro il governo infami, unita ma lottare. Contro il governo infame, unita va a lottare. Mathilde Politi radyonuzdaydı. 2003 yılından bu yana Palermo'da Sara Banda projesiyle göçmenlerin müzik yoluyla sosyal entegrasyonuna kendini adamış. İnsanlar ve kültürler arasında karşılaşmayı teşvik etmeyi amaçlayan çok etnik yapılı performansların yaratılmasına hep ön ayak olmuş. Şimdi Sicilya kadın şarkılarına yer veren Viva Santa Libertà adlı albümden iki parça dinleyeceğiz. Nita Vidie Vadi, arkasından da Viva la Libertà ile Mathilde Politi. Şimdi radyonuzda. David va dentavo scorafonne, onne l'amante mia recame sprio, la vaio per cercare un giavaronne, bello suo amore lo manno freo. Vaio a lumari e c'ha domanno a lunni, forse passavo ricca l'amore mio, e l'ecore lontano ma risponne, cammano delle turche se neo. Quanti si assi e la spada torlano, quanta gerasse per tutto lo mondo, la mia casa zanni mori che stanno, uta frau, io mi confondo. O so mammuzza, cucco ritranno, la vanno a mano a cercare l'uno, la manca chiaste, un sentiste lo fanno, un ghiti, amore che le torre che ci sono. Funna funna guarda una galera, povero amore mio che pena porti, forse attaccata di mala maniera, forse un cutetto ma ci runa la morte. Senti un maruso che l'arma dispera, addio cari che ante sono forte, nelle cani ritorna la bandiera, caro ne passa, dacci passa la morte, vecchiate l'arme, che corre dei picciotti, ci vale forza e coraggiuri tutti, calate a mare, un sentite le botte, la gran serpente ne sceo delle grotte, che c'è lo pondo di vita e di morte, a quali stato non si morre rotte, e alla Sardano, che batte alle porte, ma se na quanta lo cuore na ghiotte. e come tante lo occhi ridotte siamo tante mamma locche, come son croce con pentoli cracchi, come già si aro stempa mazze torche, o scappa scappa e ecco arrampica rocchi, cos'è che fa già sotto le trabocche e le campane fondano chi o tocchi, andano le crete cantano le cocche, sono nudi sciutti e latera le tempi, so saccheggiati e province eccitati, calati a mare, correte per stempi, ai che le vecchie sono abbandonate. Scupetti patuncine fuori, santuri pantani venite a combattere, sbirri assurdati l'avemo a disciuri, tempuri nenti l'avemo a rabattere, e viva la califa fuori, viva la Italia che non le fa battere, fora Borbone cali nasce fuori, lo centro del cuore vanno a spartere. Le tasche che crescevano a miglia e miglia, ne cucia insomma come la bucalia. E viva la libertà, califa fuori, viva l'Italia che non le fa battere. Ora Borboni cali nasce fuori, lo centro del cuore vanno a spartere. E zza vanno dicendo, viva pianori vanno gridando, questa guerra chi bravo, di la mistina di ranni lascio, caprazzo ed armi di bottuccio vau. E uno ne ricevi di reggivano, e le città ti vanno a bruciano. Autunni dice ad attini di Parma, la nazione un ne può avere danno. E viva la libertà, califa fuori, viva l'Italia che non le fa battere. Ora Borboni cani Rita V diye Vadi ve Viva la Liberta dinledik Mathilde Politi'den. Şarkıcı ve söz yazarı Guido Politi'ye konserlerinde akordeoncu ve ikinci ses olarak eşlik etmekte. Şimdi bu işbirliğinden bir parçayla devam ediyoruz. Önce Mantino, arkasından da Gabriele Politi ile birlikte 2013 yılında Brüksel'den bir konser kaydı dinleyeceğiz. Bir üzüm hasatı tarantellası bu. Vinicia şimdi radyonuzda. Brigadieri, io vengo a denunciare che a me fottero tutto lo fumare. O follo te linguendo non saccia dire, ma voce già sapete a cui cercare. De gran fetose, in testa o presidente, che sta la vota buona che l'arresto. Io me ne fotto se sono un innocente. Furto di merda ne serve de pretesto. L'impugno e tanusco un picchio, o fascio di milocca a mano ferma, lo presidente fu tutto lo consecchio, un catini se le porta non caserma, so contadini, un sonno malagenti, le femmine in ta chiazza sa trovaro, che ossari 500 temponenti. Se nero alla caserma e la bagnaro, brigadieri, lasciateli ieri, ca un fecero niente perché manzino. Brigadieri, lasciateli stare, ca sono innocenti perché manzino. Manzino, ne portammo e forcona, lasciateli ieri, ca niente ce fa. Manzi non ne incazzamo davvero, e i colpi vai su non se cantano a chi ho. Ma quando l'ha puntato per lo scanto, dall'aria scopittata ci partiu. Le femmine so stavano mangiando e disarmato ostaggio addiventavo. Appresso alla pattiata per lo scancio, cannella e sua compagna al libertaro, e in trionfo per lo corso come un grancio, un te spade all'appuntato si portaro. Giorno appresso, per l'umiliazione, l'esercito governo ne mannò. Casa per casa, battendo alle portoni, immenso paese e notte arrospicchiò. Se prima cinque, a 50 anni arrestaron, c'ha coi 13 femmine di remma. Se come un ceta si annuncia caserma, appeare a Campofranco l'avviaro. Brigadieri, nero l'uno i teari, firmamo un'anticchia picchi manzino. Ci sono femmine che hanno allattare, non ci chiama panza, mi pesa chiassà. Manzino, partorisce un cassutto, da stupere che rubo calombre anni fa, con gran giunzo te mala fe ora, don ciumere mardava vita fuca. Manzina, non se mala fe ora, è un ciume di merda, ma soffocherà. Thank you. Antino ve Vininia ile Matilde Politi radyonuzdaydı. 2013 yılında antimilitarist hareket No Muos'u desteklemek için çekilen Ensorizzo'nun yönetmenliğini üstlendiği filmde, belgeselde bir şarkıyla yer aldı. Cantata No Muos diye. 2015 yılında da Alessandro Puglia ile birlikte bir işbirliğine başladılar ve Sicilya Yunanistan arasında müzikal bir köprü kuran ama esas olarak da Türk, Balkan ve Orta Doğu müzik gelenekleri de genişleten bir repertuar üzerinde çalışan Agenti Mistici grubunu kurdular. Bugün kaybolan halk şarkılarını geri getirmeyi kendine bir misyon edinen Sicilyalı sözlü geleneğin en önemli temsilcilerinden biri Matilde Politi'nin şarkıları geçti Itabella'dan. Şimdi az evvel bahsettiğimiz No Muos ve arkasından da Agenti Mistici'den Menuli ile veda edelim programa. Ben Cansın Sayesen. Itabella'daydınız. Hoşçakalın. Sicilia, nostra terra, amata madre. Dello tempo che sto mondo fu creato, ne verista assai manciuna e lagi a rubare i tuoi ricchizzi da ogni lato. E noi figli di sta terra amata madre, tali secoli con cori amo lottato per proteggere lo bene comune, bastoniato sempre come un cane. E schiava fusti di ricchi e potenti, mentre lo povereggio sempre che ancincia fame, anche risa o brusa e stenti, un perde lo coraggio e ammola lanci. Semmola, luttammo alle fetenti, la storia anni lurici e cula canci, per dirne che semo picurona, sape buono, caniace semo liuna. La storia nostra è scritta a culo sangue di cui ha lottato con coraggio e incegno. Sotto la china un secalaudo iunco e contro la tirannia sempre a pesdegno. E è pricchisto, n'hanno miso i sicuttari, che i siciliani un saponno a liberare. Mafia e chiesa, governi rilagioni, sotto lo manto dell'americane. So this is the beginning of the story, and now the actors, first actors enters in the story, that are the Americans. And we start from the first quadro, that is the landing of the US forces in 1943. And I was saying that we, the Sicilian people, we are used to think, even we think of ourselves, that we are like ships, bleh. But I think it's not true. I think it's the opposite, that we can be very dangerous, as the story of before tell the Vespri Siciliani. And because we can be very dangerous, in some way there have been for centuries some forces, some powers that kept us inside something like a kappa, that keep the things still. And these powers are, you can see here, we have the fascists, we have the mafia, the other maybe you can recognize. And after 43, or maybe something before and after, all these powers has been coordinated by the US secret intelligence. And this is not my opinion, but is you can see this in the documents that now are published. So let's go straight to the end, at the conclusion. I cancelli della base militare, da marina americana a US navi, non si grappano più, nuggio a passare, che a cassa vuota non ci fate scavi. Pumuos, li travagliate a fermare, ora tutte l'antenna smantellare, la nostra vita è cosa più importante. di tutti i vostri sordi e l'armamenti. Sicilia s'ava smilitarizzare, l'Italia a rimperi si mettesse in faccia gli americani, piccanciari l'eterna schiavitù che un patto scrisse, liberi e in pace potemo cominciare a fare un nuovo mondo che virisse uomini e donne tutti una famiglia, capilo bene comune assai travaglia, e tutti uniti con una sola voce gridamo che Sicilia vuole pace. Governo i porci grossi e con noci sopra un camino che a noi non ne piace, ma se il popolo è sovrano a nostra voce sconfiggerà l'abuso e come braci sotto lo culo dell'americani siamo migliaia di nomos siciliani.